noi siamo caduti insieme nella fretta di arrivare proprio là dove comincia un sogno. A questo punto io mi gioco tutto dimostrandoti chi sono ancora. Per giorni interi senza perdermi per strada con la bussola tra le mani. Rifletto e poi commento e poi ci infilo anche il passato dove niente ci fermava, era l'eco di un qualcosa che distrazioni in un contesto scivoloso e pensa a come eravamo. A questo punto io